Lettera spedita dalla città imperiale di Augusta, indirizzata a Gianpietro Carafa, datata 17 settembre 1527. All'eminentissimo e reverendissimo signore Giovanni Pietro Carafa in Roma. Signore mio onorandissimo, in quest'ora greve di incertezza mi è concesso soltanto l'appello alla misericordia di Dio, consapevole che la sua luce, attraverso la bontà che vostra signoria continua a manifestare verso di me, può indicare a questo indegno mortale la via da tenere nella tenebra che ci circonda. Ed è per questo che mi accingo a riferire su quanto accade quassù, nel cuore marcio dell'impero, nella speranza che anche una sola delle mie parole possa essere d'aiuto ai disegni della signoria vostra. La Sassonia elettorale si accinge a mutare il proprio ordinamento ecclesiastico. L'ultimo atto dell'opera incominciato ormai 10 anni or sono sta per compiersi. Fin dal momento della morte di Federico il Savio, 2 anni fa, è infatti apparsa chiara l'intenzione del fratello Giovanni di continuare là dove il suo predecessore aveva dovuto interrompere. Ebbene, il nuovo ordinamento concede al principe stesso la scelta dei parroci, i quali ora possono prendere moglie. Un concistoro di dottori e soprintendenti lo consigliano nella selezione. Il patrimonio della Chiesa è posto sotto il controllo del principe, che presto tardi procederà ad annetterselo completamente, così come l'insegnamento della dottrina e la gestione delle scuole. La formazione delle nuove leve di teologi luterani è in questo modo garantita. A Marburgo è stata fondata la prima università eretica. Il modesto parere del servo di vostra signoria è che la peste luterana sia ormai invincibile dalle sole forze umane e che sia possibile solamente tentare un suo contenimento entro i confini che ha finora guadagnato. Ma gli eventi degli ultimi anni hanno insegnato a questo povero soldato di Dio che spesso ciò che appare un male, nel grande disegno dell'Altissimo, può trasformarsi in bene. Il matrimonio della fede eretica con i principi tedeschi fa sì che essa non possa più svincolarsi da quest'ultimi e dalle alleanze che essi vorranno contrarre. Essi possono rivelarsi ottimi alleati contro l'imperatore e già ora non è raro incontrare messi e ambasciatori francesi lungo le strade di queste lande germaniche. Certo, è prematuro attendersi un'imminente discesa in campo dei principi contro Carlo, ma non è da pazzi prospettarla per il futuro. Io credo, mio signore, che i nostri calcoli si riveleranno nel corso del tempo quanto mai acuti e premonitori. Se dunque le sorti della guerra in Italia versano a sfavore dei francesi, la signoria vostra si consoli, pensando che di qui a pochi anni Carlo rischia di vedere i propri confini orientali schiacciati tra il turco e i principi luterani. Allora il suo potere comincerebbe davvero a vacillare. Ma vi è un male sottile che striscia su questa terra sventurata e di cui mi accingo a darvi notizia. Le ultime settimane hanno visto questa città squassata dalla repressione contro i cosiddetti anabattisti. Questi bestemmiatori portano alle estreme conseguenze le perfide dottrine di Lutero. Essi rifiutano il battesimo degli infanti, poiché ritengono che lo Spirito Santo possa essere accettato soltanto per volontà del fedele che lo riceve. Rifiutano la gerarchia ecclesiastica e si uniscono in comunità, i cui pastori vengono eletti dai fedeli medesimi. Misconoscono l'autorità dottrinale della Chiesa e considerano la Scrittura l'unica fonte di verità. Ma, in questo peggiori di Lutero, rifiutano anche di obbedire alle autorità secolari e pretendono che siano le singole comunità cristiane ad adempiere all'amministrazione civica. Inoltre, avversano la ricchezza e tutte le forme secolari del culto, le immagini, le chiese, i paramenti sacri, in nome dell'uguaglianza di tutti i discendenti di Adamo. Essi vorrebbero sovvertire il mondo da capo a piedi e non è un caso che molti reduci della guerra dei contadini abbiano simpatizzato con essi, sposandone la causa. Le autorità hanno un bel da fare per reprimere questi sedotti da Satana, che proprio il mese scorso si erano dati convegno qui ad Augusta per un sinodo generale. Fortunatamente, in pochi giorni, quasi tutti i loro capi sono stati imprigionati. Tra di essi non si possono annoverare uomini del peso di Thomas Münzer. E tuttavia, il pericolo rappresentato da costoro si prefigura più grave di quanto il loro numero attuale non possa far pensare. Le loro eresie, infatti, sembrano diffondersi in tutta la Germania sud-occidentale con facilità e rapidità estreme. Esse prediligono i ceti minori, i lavoratori meccanici, che ne rimangono infettati per l'odio che covano nei confronti dei loro superiori. Le popolazioni delle campagne, ignoranti e scontente, partecipano spesso ai loro rituali nei boschi, cedendo all'incanto di Satana. Proprio per il fatto di non essere vincolati a nessun ordinamento civile e religioso, questi anabattisti, che tra loro si chiamano fratelli, propagano più facilmente e rapidamente la propria peste di quanto lo stesso Lutero non riesca a fare negli ultimi tempi. È facile prevedere che il loro numero aumenterà e presto l'anabattismo varcherà i confini di queste città. Ovunque vi sia un contadino o un artigiano scontento, affamato o maltrattato, vi è un eretico in potenza. Ecco perché non smetterò di raccogliere informazioni e di seguire, quanto più da vicino mi sarà possibile, le sorti di questi miscredenti, per fornire a vostra signoria nuova materia di valutazione. Non occorre dire altro, se non che bacio le mani della signoria vostra, raccomandandomi alla benevolenza di cui è solita omaggiarmi, concedendomi di continuare a prestare questi poveri occhi alla causa di Dio. Di Augusta, il giorno 17 settembre dell'anno 1527, il fedele osservatore di vostra signoria, Q.